in questi anni, in attesa di questa legge che ci ha visto impegnati in prima linea, i testamenti biologici raccolti dall'Associazione Luca Coscioni sono oltre 15.000, ma questi vanno aggiunti tutti i testamenti biologici che sono stati depositati nei tanti registri comunali sul testamento biologico. E vorrei precisare che in base alla legge sul testamento biologico che entra in vigore oggi, hanno piena validità legale anche i testamenti biologici autenticati in epoca precedente alla legge. Certo, da oggi gli italiani hanno più diritti, nel senso che finalmente grazie a questa legge è come se fossero diventati maggiorenni per il nostro Stato, perché nessuno potrà mettere in dubbio la libertà di scelta nel rifiutare terapie sanitarie, perché c'è un testamento biologico autenticato, c'è un fiduciario e questo farà in modo che non ci saranno più casi come quello di Eluana Englaro o Pier Giorgio Welby o i tanti malati che con noi in questi anni hanno chiesto al Parlamento una legge che garantisse quello che la nostra Carta Costituzionale riconosce a tutti i cittadini, la libertà personale inviolabile, e nessuno può essere sottoposto a dei trattamenti sanitari senza il proprio consenso. Eppure c'è già la preoccupazione che questa legge in un qualche modo possa essere ostacolata o boicottata, un po' la burocrazia, un po' l'obiezione di coscienza. Sì, questa preoccupazione c'è, però la legge non prevede l'obiezione di coscienza, la legge va applicata esattamente com'è. Siamo pronti a tutelare tutti coloro che potessero trovare in questo percorso un ostacolo. Sul sito dell'Associazione Luca Coscioni è disponibile il modello di testamento biologico che può essere perfezionato, ampliato anche con il proprio medico, ed è disponibile anche una sezione dove ci sono domande e risposte. La parte burocratica è logico, e la legge entra in vigore oggi. In Italia ci sono tanti registri per il testamento biologico e ne stanno nascendo ancora tantissimi, perché dal giorno dell'approvazione della legge noi abbiamo ricevuto tante richieste dai comuni che ci chiedevano un modello di delibera per istituire il registro per il testamento biologico. E poi c'è una legge in vigore in Italia che riguarda la cartella sanitaria elettronica, che però non è stata applicata in modo uniforme su tutto il territorio italiano. Questa è anche un'occasione affinché quella legge, che è importantissima perché consente di avere informazioni sulla persona a livello sanitario reperibili su tutto il territorio, quella legge oggi è ancora più importante perché prevede che sia inserito anche il dato sul testamento biologico, che deve essere reperibile per qualsiasi persona in qualsiasi posto si trovi. Torno un secondo sull'obiezione di coscienza, perché appunto già circola anche un po' di disinformazione. Come dire, la struttura comunque deve garantire il rispetto della volontà del paziente, ma il singolo medico può obiettare? La legge non prevede l'obiezione di coscienza, lo ripeto, in nessuna parte della legge si trova questo termine. L'obiezione di coscienza, per essere prevista, deve essere normata e prevista per legge. Il medico si può rifiutare a richieste fatte dal paziente contrarie alla legge. In ogni caso la struttura deve adempiere. Ma che cosa significa tutto questo? Qual è la richiesta che un paziente può fare ad un medico contrario alla legge sulle date, alle norme in vigore nel nostro paese? La legge ha voluto lasciare una traccia ben chiara, dice di no all'eutanasia, al suicidio assistito. Noi non ci nascondiamo, c'è una legge in Parlamento di iniziativa popolare depositata nel 2013, nella prossima legislatura chiederemo che sia calendarizzata. Il legislatore con la legge sul testamento biologico ha voluto chiarire che non aveva nulla a che fare con eutanasia e suicidio assistito, e per tale motivo è stata aggiunta questa frase all'interno della legge. Se un medico ha intenzione di fare obiezione di coscienza, lo può fare sulla legge sull'aborto, sulla fecondazione assistita, sulla sperimentazione animale, perché in quelle leggi è prevista l'obiezione di coscienza, ma sul testamento biologico no.